settembre tu mi hai lasciato con un messaggio, io non ti ho detto niente, le cose giuste non hanno un gran bisogno di parole. Ottobre, oggi è arrivato ottobre, col suo cappotto nero e piove sulle finestre dove milioni di persone sole vanno avanti e indietro in cerca del presente, cercando una risposta a questo cielo a specchio di novembre. Dicembre, erano mesi che non usciva il sole, è sempre così difficile, dicevi, l'amore. Tenere in testa o nascondere in un portafogli, ma c'è chi se li dimentica nei sogni. Sveglia, gennaio arriva in fretta, la neve è quel che resta di febbraio, di un'astuta ricorrenza. Un bacio è solo un bacio e marzo è una promessa, ma per qualcuno la prima rosa di maggio è una scoperta. Mesi che non usciva il sole, è sempre così difficile, dicevi, l'amore.